Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Pomeriggio, un minuto di silenzio sabato, vigilia di Pasqua e giornata di campionato su tutti i campi di Serie A e B e del campionato primavera, con il lutto al braccio per i giocatori. Lo ha deciso la Lega Calcio. Il mondo del pallone si sta mobilitando a sua volta con iniziative di solidarietà. Per esempio il Napoli ha deciso di devolvere l'intero incasso della partita Napoli-Atalanta in programma sabato alle vittime del terremoto in Abruzzo. Sentiamo il presidente De Laurentiis. Io credo che come esempio la partita che verrà giocata dal Napoli al San Paolo questo prossimo sabato, tutto l'incasso sarà messo a disposizione e devoluto. In scaletta oggi tre capitoli di massima. Uno sguardo carico di invidia al resto d'Europa, visto che da stasera tornano le coppe e tra poco ci collegheremo con Nicola Roggero per approfondire questi due giorni dei quarti di finale. Qualche allarmante segnale di ritorno alla violenza, direi più che allarmante, e poi gli echi di una giornata, visto anche che la puntata di ieri non è praticamente andata in onda, gli echi di una giornata che di fatto ha assegnato anche questo scudetto all'Inter, lasciando aperta solo la lotta al quarto posto e quella per la salvezza. I segnali di un ritorno di violenza intorno agli stadi arrivano da più parti, ma in particolare da Cagliari e da Bergamo. Una cronaca desunta da un quotidiano di ieri, nella fattispecie la Gazzetta dello Sport, su quello che è accaduto domenica a Cagliari. Aggrediti, picchiati e bastonati in pieno centro di Cagliari perché avevano l'accento siciliano e ieri a Sant'Elia si giocava Cagliari-Catania. L'ultima follia del calcio ha avuto per protagonisti 27 ultra del Cagliari e per vittime 22 studenti e 2 professori dell'Istituto Nautico Caio Duilio di Messina in gita stage. Quindi una gita scolastica in piena regola, morale. Il professore che li accompagnava, che insegna tecniche marinare, è stato picchiato selvaggiamente mentre cercava di proteggere i suoi alunni. È ricoverato con un trauma cranico e shock emotivo, prognosi di 21 giorni, 5 studenti medicati, 38 ultra fermati dalla polizia, 27 identificati. La dinamica è molto semplice, questi ragazzi, ripeto, in gita scolastica avevano il gravissimo torto di parlare siciliano, dunque un accento, non lo stesso, ma un accento simile, messinese anziché catanese, a quelli rispetto a quello che potevano parlare i tifosi del Catania in eventuale trasferta a Cagliari quel giorno. Secondo fatto, ricavo da un'altra cronaca, nella notte tra sabato e domenica, in una via secondaria dietro l'hotel che ospitava la Fiorentina alla periferia di Bergamo, pullman della Fiorentina parcheggiato, distrutto praticamente a colpi di sassi e di mazze, tutti i finestrini laterali abbattuti, danneggiato in un otto anteriore, e questo è il prologo notturno. Poco prima della partita, altri sassi contro due auto dei vigili urbani, tre ragazzi arrestati, due ragazzi e una ragazza per la precisione, un quarto minorenne denunciato e affidato alla madre. Qui viene il bello. Sono già ovviamente stati scarcerati nel giro di poche ore. Per i primi due il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, per il terzo l'obbligo di dimora, aggiornando il processo al 4 maggio. Dunque è andata così, che gli agenti della Ligos li hanno trovati a bordo di una Golf dello stesso modello di quella che alcuni testimoni avevano visto allontanarsi dopo il lancio di sassi. Nella macchina c'erano sassi, un passamontagna e fotosegnaletiche di due giornalisti dell'Eco di Bergamo che da mesi sono minacciati dagli ultra. Il proprietario della vettura ha dichiarato che quei sassi provenivano dal suo giardino di casa e che li stava portando in una discarica. È già a piede libero, sia pure agli arresti, no, non è a piede libero, è agli arresti domiciliari, gli sono stati concessi, perché evidentemente mi sono permesso di scriverlo stamane nella consueta rubrica del Sole 24 Ore che esce il martedì. Evidentemente la tolleranza zero deve cedere il passo alle pulizie pasquali, e questo povero ragazzo stava portando i sassi del giardino alla discarica e non si può evidentemente fargliene una colpa. Questi, vi dicevo, i segnali più inquietanti, ma ce ne sono molti altri che arrivano da un po' tutte le categorie e che lasciano purtroppo presupporre che presto Potrebbe esserci qualcosa di più grave, se questo è l'humus in cui continuano a maturare vicende di questo genere. Più tardi, evidentemente, converseremo insieme su fatti che riguardano le coppe e il campionato. Possiamo sentire una voce mentre perfezioniamo il collegamento con Nicola Roggero, la voce di Gattuso. Penso che Ancelotti è il Milan. Fra tutti gli anni che ha fatto da giocatore, tutti gli anni da allenatore, penso che se non è Ancelotti un uomo Milan, solo Maldini, penso Costa Curta, sono ai suoi livelli. Penso che non c'è un reparto dove siamo messi meglio. Penso se deve arrivare qualcuno, può arrivare in qualsiasi posto. È normale che se Paolo o Favalli non rinnova il posto dove dobbiamo... dove deve arrivare qualche giocatore nuovo è la difesa. Era una proiezione di mercato che riguarda il Milan, l'avete sentita. Ce n'è un'altra che arriva dal Marca, da uno dei quotidiani sportivi spagnoli, secondo cui il candidato presidenziale alla presidenza del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe già offerto a Kakà non soltanto un ricco contratto, oltre a una trattativa con il Milan impostata sulla base di 60 milioni di euro, ma avrebbe offerto a Kakà anche la maglia numero 5 madridista, che fu di Zidane. Ecco, collegato con noi Nicola Roggero. Nicola, buongiorno. Nicola, sto cercando di collegarmi con Nicola Roggero. Nicola, buona giornata. Nicola, mica tanto buona questa giornata. Allora, sentiamo un altro contributo vocale e poi perfezioneremo il collegamento nella seconda parte, dopo gli aggiornamenti per il traffico. Ed è sempre tratta dagli amici di Sky un contributo di Leonardo sul conto di Adriano. Quello che si sa sicuramente è un ragazzo che è in difficoltà, credo che è in difficoltà nella sua vita, dopo dobbiamo pensare come giocatore. Ha avuto un percorso difficile, credo che sicuramente cose familiari, problemi che ha avuto in passato gli hanno condizionato un po' l'umore, sicuramente ha fatto fatica a gestire certe situazioni. Conosciamo bene cos'è una realtà di un ragazzo di un'infanzia difficile, che in Brasile sicuramente trova l'abbraccio, io credo che quello che lui cerca adesso, trova l'abbraccio di chi capisce una situazione. È più difficile in Europa oggi capire la sua situazione che in Brasile, che uno conosce, diciamo così, un percorso che ha fatto e tante volte è comune a tante altre persone. Beh, questa è una spiegazione plausibile, certo molto, molto affettuosa. Ecco Nicola Roggero, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. Nicola, ormai siamo vicini all'appuntamento con il traffico, perché insomma con il giornale radio iniziale, peraltro atto più che dovuto, visto quello che sta accadendo, che è accaduto e che sta ancora accadendo, l'attualità insomma ha una precedenza totale. Quindi io vorrei soltanto introdurre con te il capitolo che affrontiamo tra poco, che parte dalla doppia serata di Coppa stasera e domani sera, e che poi invece si sposta con uno sguardo all'indietro, soprattutto su questo Romano de Roma, su questo ragazzino Romano de Roma che ha non lo so, che ha incantato, insomma, che ha folgorato veramente niente meno che l'Old Trafford al suo debutto assoluto nel calcio che conta. Vi ricordo che ci sarà spazio più tardi per i vostri consueti interventi all'800 24 00 24. Adesso con Nicola Roggero cominciamo dalla serata di oggi. È la meno divertente, almeno sulla carta, delle due, perché stasera si gioca Manchester United-Porto, tra l'altro col Manchester in casa, e Villarreal-Arsenal. Domani Barcellona-Monaco e direi soprattutto Liverpool-Chelsea. Mi sembra che sia un po' la serata clou, la seconda. Sì, diciamo che chi ha il sorteggio una volta tanto è andato in crescendo, quindi insomma preparerà il terreno verso il meglio. Oggi in un termini musicali potremmo dire che ci sono i gruppi appoggio in attesa delle star. Anche se attenzione, perché il Manchester United, che indubbiamente tanti vedono, o meglio vedevano, come grande favorito per la riconferma in Champions, sta attraversando un periodo per nulla facile. Aveva perso due partite in fila subito dopo l'Inter, e direi che già al ritorno con l'Inter qualche crepa il Manchester l'aveva denunciata. Sì. Poi ha perso col Liverpool, ha perso col Fulham, con l'Aston Villa è stato salvato dal ragazzino Federico Macheda, di cui dopo naturalmente parleremo, e per giunta questa sera si presenta senza Rio Ferdinand. Da quando Rio Ferdinand ha cominciato ad avere dei problemi, casualmente o forse non tanto casualmente, il Manchester ha cominciato a lamentare delle crepe difensive notevoli, per cui insomma è una partita che si è fatta un pochino più interessante rispetto a quanto si temesse alla vigilia, dove insomma si pensava a un incontro decisamente poco equilibrato, e anche l'altro incontro tra Arsenal e Villarreal potrebbe essere meno scontato di quanto si pensi. È una riedizione di un match che si disputò nella finale nella semifinale del 2006, e allora il Villarreal andò veramente a un soffio dal portare l'Arsenal in supplementare al ritorno, perché Riquelme sbagliò un rigore proprio all'ultimo minuto, avrebbe pareggiato il gol dell'andata di Kolo Touré. Per giunta l'Arsenal, notizie proprio dell'ultima ora, dovrà fare a meno di Van Persie, quindi ha recuperato Adebayor e Fabregas, ma deve fare a meno di Van Persie, quindi insomma questa è un'assenza pesante. In più sottolineo, l'allenatore del Villarreal è quel Manuel Pellegrini, o meglio è Manuel Pellegrini, che è un allenatore cileno che ha costruito un autentico miracolo con questa squadra. A mio parere sarebbe uno che meriterebbe anche panchine più interessanti, l'ha fatto con giocatori non notissimi, per cui insomma il Villarreal merita la giusta attenzione, non fosse altro perché in attacco c'è Giuseppe Rossi, che praticamente è lo zio di Macheda, visto da dove arriva. Sì, è vero, il vero predecessore di Macheda, tra poco ci arriviamo. L'Arsenal in compenso, e mi pare lo si sia visto e come già nel fine settimana, ha ritrovato il suo faro, perché giocare con o senza Fabregas mi pare che faccia una certa differenza, anche per quella squadra lì che pure gioca a memoria. Sì, anche perché hanno ritrovato il braccio e la mente, praticamente. La mente Fabregas e il braccio Adebayor. L'ultima partita con il Manchester City, Adebayor si è subito esibito con una doppietta, Fabregas ha ripreso in mano il pallino del centrocampo ed è tutto un altro Arsenal. Insomma, è un Arsenal molto diverso da quello che si era visto, per esempio, nella semifinale di ritorno, nell'ottavo di ritorno con la Roma. Per cui è una squadra che chissà, potrebbe anche puntare, visto che in campionato non ha chance, a vincere questa Champions League. Questo certamente. Dunque, in panchina, con ogni probabilità, anzi Ferguson lo ha annunciato, andrà questo ragazzino che è, insomma, che domenica ha veramente incantato non solo la Premier League, ma ha incantato un po' il calcio di tutto il mondo, perché la sua è una favola. Adesso poi vedremo la favola magari anche in controluce, raccontando per bene la storia. Però non c'è dubbio che quello è stato un gol di una fattura tale che l'avesse segnato una stella, avrebbe comunque fatto sensazione. Segnandolo un ragazzino romano de Roma al suo debutto, insomma, l'eco non poteva che essere enorme. Ma aggiungiamo una cosa, che lui ha segnato un gol al 90° minuto in uno stadio come l'Old Trafford, che ha 76.000 posti, in un contesto molto difficile per il Manchester, che se quella partita l'avesse pareggiata avrebbe visto il Liverpool sfilargli davanti. E insomma, già solo prendersi la responsabilità di un tiro praticamente all'ultima azione della partita, avendo intorno della gente, cito a caso, che si chiama Cristiano Ronaldo, Tevez, Ryan Giggs, chi è più ne ha più ne metta, già significa una certa sicurezza nei propri mezzi. In più è venuto fuori un gol di strepitosa fattura, ecco, certo. Io non credo che un'azione del genere possa essere casuale, cioè ci deve essere tanto talento in questo ragazzo. Non c'è dubbio, talento che il Manchester aveva scoperto molto per tempo, visto che lo ha, insomma, il verbo che si può usare varia da quelli che ha usato lo Tito a quelli che invece usa il Manchester. Poi parleremo delle pieghe regolamentari e del perché questi ratti. No? Ratti nel senso di ratti delle Sabine, non certamente di ratti nel senso di topi. Insomma, sì. Perché queste mosse avvengono sempre più frequentemente. Adesso raccontiamo invece, Nicola, la storia di questo ragazzino. Dunque, questo ragazzino che è cresciuto nella periferia di Roma, giocava appunto nella Lazio, era un attaccante. Il Manchester l'ho scoperto in maniera, se vogliamo, casuale, perché gli emissari del Red Devils erano andati appunto a vedere una partita delle giovanili della Lazio, ma per un altro giocatore che era un difensore. Poi evidentemente, di fronte alle proteste di questo Macheda, che giocava appunto da attaccante, hanno cambiato idea e hanno detto no, quello da prendere è l'uomo davanti. Quindi insomma rapidamente si firma questo contratto, poi appunto parleremo delle pieghe regolamentari della vicenda, ma direi che la cosa più interessante è sapere cosa è successo all'arrivo di questo Federico Macheda a Manchester. Sì. Lui si presenta all'aeroporto con il papà, sbarca in questa città sconosciuta, nella folla vede Ryan Giggs. Allora naturalmente tocca di gomito il papà, dicendo: papà, c'è Ryan Giggs, vado a chiedergli l'autografo. Con sorpresa del ragazzino, non è lui che va da Ryan Giggs, ma è Ryan Giggs che arriva da lui e dice: guarda ragazzo, io sono Ryan Giggs, mi manda Alex Ferguson a prenderti. Ora, uno che gioca a calcio e trova Ryan Giggs a fare l'autista, beh, come minimo è un predestinato. Sì, sì, sì. È già molto che non sia svenuto sto ragazzo, deve avere un discreto autocontrollo. Si è addirittura messo a piangere, questo forse mi sembra troppo. Però insomma, vedere Ryan Giggs viene a prendere come se no, uno che arriva al Milan qualche anno fa e avesse Gianni Riviera ad aspettarlo in aeroporto. Sì, ecco. Sì, sono Ryan Giggs e sono venuto a prendere te, altro che autografo. Beh, immagino che se questo è stato l'inizio, stiamo parlando dell'estate 2007, no? Se non sbaglio, di un anno e mezzo fa, un po' di più. Se questo è stato l'inizio, probabilmente il rapporto e quindi una maturazione progressiva si sia svolta in maniera proficua, indipendentemente poi da questa gemma dell'altro giorno, perché quelle sono prodezze predestinate, magari chissà, casuali al momento, ma con un'accoglienza così poi com'è andata avanti la vicenda? Ma è andata avanti molto bene, perché ovviamente Macheda, che tra l'altro ha trovato un suo concittadino al Manchester, Petrucci, che è un ragazzo che invece arriva dalla sponda opposta del Tevere, arriva dalla Roma, dove ovviamente hanno fatto amicizia, passano molto tempo insieme, sono stati portati prima nella squadra nel junior e poi ogni tanto nella squadra riserve, che è il campionato che si gioca tuttora in Inghilterra. In Italia credo si giocasse il vecchio torneo Berretto, qualcosa del genere, che sì, era sostanzialmente quello riservato ai giocatori meno impegnati. E appunto sia nella formazione junior che nella formazione delle riserve Macheda ha fatto molto bene, tanto che Macheda doveva rispondere a una convocazione dell'Under 19 italiana, ma proprio Ferguson gli ha detto: senti, non rispondere a questa convocazione perché io sabato, cioè domenica, ti porto in panchina con l'Aston Villa. Quindi insomma, Ferguson il disegno comunque di utilizzare Macheda ce l'aveva già, indipendentemente poi da come si sono svolte le cose, e questa è la maggior garanzia sulle qualità del ragazzino. Adesso vediamo questa bella favola, vediamola in controluce. Giriamo un attimo la prospettiva e vediamo quello che, per esempio, Platini come presidente dell'UEFA sta provando a combattere, e cioè il fatto che, oppure le parole anche molto pesanti che Lotito ha usato a proposito di questa mossa del Manchester, il fatto cioè che sia lecito o non lecito andare a rapire in pratica ragazzini che una società si è allevata e a cui invece arriva un'altra società che offre un contratto che una italiana invece non può proporre e se lo porta via. Come avviene, com'è il meccanismo? Dunque, io credo che ci sia qualche buco di sceneggiatura in quello che racconta Lotito. È vero che i ragazzini in Italia possono firmare dei contratti professionisti soltanto a 16 anni, sì, ma quando Macheda è nato al Manchester aveva 15 anni e 11 mesi, quindi penso che se la Lazio avesse voluto offrirgli un contratto, insomma, mancava veramente un mese alla scadenza del 16° compleanno. Sì. E quindi penso che avrebbe tranquillamente potuto farcela, anche perché oltre alle parole di Lotito ci sono quelle di uno dei capo osservatori della Lazio, della persona che per esempio ha cresciuto, ha allevato Nesta, che dice: io continuavo a segnalare questo Macheda e non è che in società mi dessero molto retta. Aggiungiamo il fatto che il papà aveva chiesto un impiego, un lavoro, un impiego stabile per sé, e insomma pare che la Lazio non potesse offrirglielo. Per cui Manchester si è fatto vivo, il lavoro papà è stato trovato per questo Macheda la possibilità di giocare in un grande club. Io fra l'altro ho sentito che Macheda ha fatto delle interviste subito dopo la partita, addirittura come uomo del match, parlando un inglese che non sarà quello di Shakespeare, però insomma testimonia come il ragazzo perlomeno abbia già imparato la lingua. È già meglio quello del trap, ma insomma è anche più facile da ragazzi. Esatto. E in qualche modo quindi insomma vivrà un'esperienza di vita che credo sia importante. Ci sono le parole di Gattuso che ho letto oggi in un'intervista su Repubblica, e dice: io sono cresciuto molto grazie alla mia scelta che ho fatto quando sono arrivato ai Glasgow Rangers, per cui insomma io non vedo francamente tutto questo dramma di cui ieri parlava Lotito. No, dramma o scandalo no, questo scandalo, no. Ecco, diciamo scandalo. No, dramma, no, no, scandalo. No, questo è ovvio che è esagerato, è ovvio che rosichi, no, quando ti sei cresciuto un ragazzo di quel talento e te lo portano via e poi si afferma non alla Lazio ma in una squadra come lo United. Però c'è questa volontà dell'UEFA, che tra l'altro è condivisa dalla FIFA in questo caso, di intervenire per alzare a 18 anni anziché a 16 il limite minimo per un tesseramento di questo genere, per un tesseramento su un che parte dalla libera circolazione europea. Sì, ma a mio parere può essere una buona cosa se si ritiene che un ragazzino a 16 anni abbia delle priorità diverse rispetto a quello di fare il professionista del calcio, e questo è sicuramente vero. Non so però se questo metterebbe al riparo i club italiani in questo senso. A 18 anni gli inglesi o comunque quelli di tanti altri campionati, quando un giocatore buono lo lanciano in prima squadra, come giusto che sia. Italia Rivera ha vinto una Coppa dei Campioni che aveva 20 anni, Mazzola segnò una doppietta in finale al Real Madrid che ne aveva 21, quindi insomma a 18 anni è già una buona età per esordire. In Italia ci chiediamo se Giovinco, età 22 anni e qualche mese, sia già pronto per giocare in Serie A, quindi forse la differenza è quella, per cui credo che un ragazzino italiano all'estero trovi molte più chance rispetto a quelle che gli vengono date nel suo campionato. L'unico esempio di 90 emerso, oltre al brasiliano Pato, e Balotelli, poi c'è il caso di Santon da qualche partita, ma per il resto io di 90-91 in Italia che giocano ne vedo molto pochi. No, questo è indubbiamente vero. È un confine difficile, no? Perché da una parte c'è il buon diritto in una società che si è cresciuta e ha levato un ragazzo in casa di tenerselo, comunque di avere una prelazione contrattuale una volta che questo diventa professionista. Dall'altro è anche vero che poi i giovani bisogna saperli valorizzare e non lasciarli magari marcire in panchina. In Inghilterra lo fanno certamente meglio di noi. Darei un minimo di spazio agli ascoltatori adesso, chiedendo permesso a Nicola Roggero, con cui poi torniamo brevemente su Macheda e magari anche su qualche altro argomento ereditato internazionale. No, è caduta la linea con l'ascoltatore, mi pare di capire. Dunque, Nicola, ritocca subito a noi. Ah, perfetto, torno subito in campo allora, come Macheda pronto nella partita con la Aston Villa. Pronto a subentrare. Allora, ricordo innanzitutto che l'argomento internazionale di oggi, vero, sono le due semifinali stasera. Stiamo riassumendo questa bella favola, che adesso poi vedremo come svilupperà, di Macheda. Abbiamo visto anche abbiamo dato anche un'occhiata in controluce. Adesso il successivo capitolo che ti proporrei te lo metto alla maniera del Sole 24 Ore, che stamane ha pubblicato una manchette di quella in cui riassume una vicenda, e questa manchette riguarda il Wolfsburg. Ha scritto il Sole: fino al 97 non era arrivata mai neppure alla massima serie, adesso potrebbe addirittura vincere il suo primo titolo in Bundesliga. Dopo la vittoria per 5-1 sul Bayern nel weekend, 5-1 al Bayern, il Wolfsburg, squadra della Volkswagen, ed ecco perché l'interesse del Sole 24 Ore, è in testa alla Bundesliga e potrebbe raggiungere la Juventus degli Agnelli nell'Olimpo delle squadre di calcio a quattro ruote. Il tutto, paradossalmente, proprio nel weekend in cui lo scudetto si è allontanato dalla Juve. C'è un altro paradosso: per il Wolfsburg il salto di qualità è arrivato 2 anni fa, con l'arrivo in panchina di una vecchia conoscenza della Juventus, quel Felix Magath, il cui gol risolse la Coppa Campioni dell'83 in finale con l'Amburgo. E poi aggiunge ancora: la squadra cara all'avvocato Agnelli può consolarsi guardando in Francia il Sochaux, perché è la squadra della Peugeot e naviga nella parte bassa della classifica. Sembrava un'utopia quella di cui si leggeva ogni tanto o si sentiva l'estate scorsa, sto Wolfsburg che aveva fatto acquisti ambiziosi, che voleva proiettarsi verso i vertici in Germania. Invece adesso al vertice ci è arrivato davvero. È certo, davvero, soprattutto ci è arrivato con il botto, visto il 5-1 rifilato a una squadretta che si chiama Bayern Monaco. Sì. Tra l'altro proprio con Magath, che oltre a essere noto in Italia per quello che ha combinato alla Juventus, è anche noto in Germania per aver allenato lo stesso Bayern Monaco, sì, con cui aveva conquistato il titolo, quindi evidentemente era uno bravo con i piedi quando giocava, eccellente centrocampista anche della Germania, ma evidentemente bravo anche dalla panchina. Sì, in Germania evidentemente si fa in fretta a costruire le squadre, quest'anno c'è anche il miracolo o mezzo miracolo del Hoffenheim, che è una squadra addirittura di un piccolo paesino che per diverse giornate addirittura ha guidato la Bundesliga. Hanno fatto degli acquisti mirati, magari non di stella assoluta, perché per esempio hanno acquistato Barzagli e Zaccardo, che sono per carità due nazionali italiane, ma certo non sono due star del certo. mondiale, e da lì sono riusciti a costruire un insieme che potrebbe anche portarli piuttosto lontano. Evidentemente il destino che prima o poi ci deve essere una squadra di una casa automobilistica che domina. C'è dubbio. Dunque, abbiamo parlato di Premier prima, insomma, accennando a questo punticino che il Manchester ha conservato sul Liverpool grazie alla prudenza del ragazzino. Adesso abbiamo accennato alla Germania. In Francia c'è una situazione simile tedesca, perché il vantaggio del Lione è soltanto di un punto e c'è un'altra bella mucchiata in classifica. E questi sono campionati il cui finale varrà certamente la pena di vivere. In Spagna invece è rimasto invariato il distacco tra il Barça e il Real. A questo punto forse il peggio per il Barcellona potrebbe essere passato, però è anche vero che è ancora la Coppa, come la vedi? Sì, ancora la Coppa, ne addirittura due di Coppa, perché il Barcellona è anche in finale di Coppa del Re, quindi insomma gli impegni per il Barcellona sono più gravosi di quella del Real, che è fuori da tutto, quindi magra consolazione, può concentrarsi veramente sul campionato. A me non pare francamente però che il Real abbia il passo per andare a inassidiare il Barcellona. Vero, manca ancora lo scontro diretto di ritorno, e che si giocherà tra l'altro a Santiago Bernabéu, sì. Potenzialmente il Real lì vincendo quella partita tre punti li può fare, però mi sembra che alla luce di questa stagione il Barcellona abbia la possibilità di tenere un ritmo che al Real mi sembra non fattibile al momento, quindi io considererei chiusa anche la vicenda spagnola. Per divertirsi bisogna andare nei campionati inglese, francese e tedesco, dove insomma l'equilibrio regna sovrano. L'impressione è proprio quella. Gli esempi virtuosi vengono seguiti. Dopo il Napoli anche il Catania ha appena annunciato che l'incasso di Catania-Sampdoria verrà devoluto integralmente alle famiglie delle vittime del terremoto abruzzese. Io ringrazierei a questo punto Nicola Roggero per il suo intervento e passerei agli ascoltatori. Ciao Nicola. Grazie Gigi. Un'ultima notizia, sì. Federico Macheda sarà in panchina anche questa sera con il Porto. Bella la dichiarazione di Ferguson, che dopo aver saggiamente detto il ragazzo ha fatto molto bene ma adesso deve stare con i piedi per terra, però ha anche aggiunto, presentando questa scelta, questa frase: dopo quello che ha fatto domenica francamente non potevo escluderlo almeno dalla panchina. Senti Nicola, deve avere, chiudiamola così, deve avere proprio un debole Ferguson per sto ragazzo, perché lo fa esordire domenica così a sorpresa, lo riconferma sia pure in panchina per una partita di Coppa Campioni, quarti di finale. Ci hai raccontato che l'aveva mandato a prendere da Giggs all'aeroporto, cioè, evidentemente qualcosa aveva. Ferguson mette in campo un 17enne, solitamente è un buon segnale. L'ultimo 17enne messo in campo dal Manchester era appunto un certo Ryan Giggs. Accadde nel derby con il Manchester City, quella partita finì 1-0, l'ha deciso un gol di Ryan Giggs. Hai capito. E non potevo che rivolgermi a un cultore della storia del Manchester per una storia di questo genere, no? È evidente. Grazie allora Nicola Roggero. Grazie a te Gigi e agli ascoltatori. Chiudiamo questo collegamento e apriamo i microfoni. Era caduta la linea prima con Genova, speriamo che non risucceda. Piero, buongiorno. Sì, buongiorno. Posso darti del tu? Penso che più o meno siamo coetanei. Sì. Senti, allora, io sono Piero Pastorino, sono un tifoso del Genova e sono stato anche sponsor del Genova dal 2000 al 2003, firmando contratto di sponsorizzazione quando a suo tempo era sponsor del Festival Crociera. Volevo innanzitutto fare i complimenti a te per come conduci la trasmissione e non ti montare la testa, però ti considero uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani a livello di Gianni Brera, Canavò, eccetera. Ma eccetera. E siamo partiti questa male. È la poi prima considerazione. La seconda, volevo fare i complimenti a De Laurentiis per avere devoluto l'incasso intero della partita prossima del Napoli a favore dei terremotati. E adesso ci mettiamo anche Pulvirenti, visto che anche il Catania ha preso la stessa decisione per Catania-Sampdoria. Molto bene, suggerirei appunto anche agli altri presidenti delle squadre serie A di fare la stessa cosa. Questo è un piccolo modestissimo suggerimento. Altra cosa volevo segnalarvi, che nel Genoa, nei ragazzi del Genoa gioca un certo Al-Sharawi, che secondo il mio modestissimo punto di vista potrebbe diventare un'altra Macheda. se voi lo facete seguire potreste constatarlo. Un'ultima cosa, l'unico appunto che ti voglio fare è quello che parlate un po' troppo poco del Genoa Calcio, che attualmente è la squadra che credo in Europa gioca il miglior calcio, diciamo, dell'Europa. Sì. Ha un allenatore grandissimo. Che... sì, Piero, io difatti ogni tanto guardo il Barcellona e mi annoio perché dico, ostia, vedessi il Genoa forse mi divertirei di più, più o meno, eh? Penso di sì che faresti una buona cosa per dire il Genoa un po' di più. Vabbè, il tifo, no, in questo caso non posso dire che faccia male il tifo, ma che faccia benissimo no, evidentemente. Il Genoa gioca un buon calcio, per i miei gusti è leggermente troppo aggressivo, in Italia l'ho già detto altre volte, se devo scegliere un calcio non di primissima fila, che peraltro non sono particolarmente divertenti, né come gioca l'Inter, né come la Juventus, il Milan una partita ogni tanto forse, ma se devo scegliere calcio divertente scelgo quello del Cagliari, semmai. Certi momenti di squadre provinciali quest'anno, il calcio del Chievo adesso che ha ritrovato un po' se stesso, il calcio del Genoa è un bel modo di giocare a pallone, indubbiamente molto corale, molto, molto inglese se vogliamo, però mi sembra che abbia sempre un tasso di aggressività un po' altino, ripeto, è una questione di gusti. E questo tifoso addirittura lo ritiene superiore esteticamente a Barcellona. Beh, insomma, ci vuole tutto il tifo per considerazioni di questo genere. Un altro genovese oggi è una beneficiata, almeno comincia così. Stefano, buongiorno. Buongiorno, niente, io anche sono germano ma non voglio parlare di quella cosa, volevo parlare un attimo del caso Makeda. Sì. Il problema dell'Italia è che se un allenatore fa giocare un ragazzo a 17-18 anni nella partita decisiva del campionato a 10 minuti dalla fine e sbaglia... Lo ricoverano. Cioè, il problema del calcio italiano è che c'è troppa pressione, anche in queste cose qua ne risente, oltre al fatto che poi culturalmente, il fatto che Ferguson abbia mandato Giggs a mandare, lei provi a mandare a dire un giocatore di Serie A d'Italia, sì, andare allo stadio, andare all'aeroporto a prendere un ragazzo di 18 anni, dice se sei scemo. Cioè in questo momento noi italiani purtroppo ci facciamo riconoscere più che altro per i tatuaggi, perché i nostri calciatori sono gli unici, penso, in Europa. Gli unici no, sono i più tatuati, questo sì, mediamente credo che lo siano, però proprio gli unici no. A loro favore, pur con tutte quante, perché uno ce lo può mettere un tatuaggio, ma è 17-18, ma poi il problema è che dalle altre squadre ce n'è uno o due, da noi tutti, i ragazzi quando entrano in prima squadra l'unica cosa che imparano dai grandi è a tatuarsi. Per cui c'è bisogno di un po' rivedersi un po' tutte tante cose, perché la pressione che c'è è difficile far giocare, anche un allenatore io capisco che lo mettono in croce, se sbaglia lo mettono in croce ed è rovinato il processo del lunedì, martedì, giovedì, venerdì. In Italia c'è troppa pressione e questo sta diventando un vero problema per il nostro gioco. Beh, sta diventando fino a un certo punto, nel senso che lo è da tempo e lo è da molto tempo. È vero, sì, ma in buonissima parte è vero, cioè da noi occorre davvero, occorre molto di più, il coraggio, quel minimo di incoscienza forse che occorre per credere in una scelta che comunque si è fatta, in un investimento, da noi un pochino manca. Continuano a saltare le linee oggi e quindi gli altri due ascoltatori già in attesa sono... puntualmente caduti anche loro, parlo di collegamento perché speriamo bene invece che non ci sia nulla del genere, è caduto quest'altro collegamento e allora ci sentiamo un breve frammento di un... no, la mia ripristinata. Alberto in linea da Modena, buongiorno. Sì, pronto, mi sente? Sì, certo. Niente, volevo solamente segnalare, sentendo che parlavate di Makeda, che nel weekend pasquale in provincia di Modena, più precisamente sui campi di Spilamberto, Castelvetro, l'area dell'Ambrusco in poche parole, c'è un torneo molto bello denominato Sassi, che tra le tante squadre che parteciperanno negli Under 18 c'è il Manchester United che dà come partecipante Makeda al torneo, quindi può essere una buona occasione anche per vedere questo talento giocare anche con i pari età, visto che comunque oltre le squadre di Sassuolo, Modena, ci sarà l'Ajax, il Bayern Monaco, direi un io vi auguro, squadre. Vi auguro che Makeda poi ci sia davvero, perché è ovvio che a questo punto sarebbe un grande richiamo. È altrettanto vero che insomma, Makeda mi sembra che ormai abbia rampato, no? E dato che sabato c'è Sunderland Manchester United di campionato, ho come la sensazione che Ferguson potrebbe decidere di continuare a trattenerlo. Ne approfitto per aggiungere che oltre a questo torneo segnalato dall'ascoltatore, proprio il tradizionalmente tra Pasqua e il 25 aprile e 1 maggio fioriscono in molte zone d'Italia tornei giovanili di grande prestigio e di grande livello. Beh, forse con quello che è successo a Machede e ad altri ragazzini in giro per il mondo varrebbe la pena di dare un'occhiata in più al calcio giovanile e quindi magari di andare di persona a seguire questi tornei. A proposito di giovani e di fiducia nei ragazzi o nei talenti, è carino il fatto che gli ultimi due messaggi che appaiono sul display appena arrivati siano praticamente un botta e risposta all'insaputo, ovviamente, l'uno ascoltatore dell'altro. Però Ancelotti con Paloschi lo ha fatto di lanciarlo, scrive Antonio da Milano. La risposta gli arriva, ripeto, un centesimo di secondo dopo, da Mattia, che scrive: sì, ma se anziché tenere Paloschi poi il Milan preferisce richiamare Shevchenko. E credo che in questo, ripeto, in questo involontario palleggio tra due ascoltatori milanisti ci sia un po' il riassunto di tutto quello che prima si diceva, e cioè il coraggio di puntare sui giovani e poi le resipiscenze, i revival, le figurine, le vecchie glorie e tutto il resto. Un attimo di pazienza a due ascoltatori di Siena e di Milano, perché questo, come sapete, è il momento del Sembra Ieri. Sembra Ieri. 7 aprile 1976. A Torino, l'Italia di Bernardini e Berzot batte per 3-1 in amichevole il Portogallo. A trascinare gli azzurri al successo è il tandem d'attacco che sta conducendo il Torino allo scudetto. Pulici e Graziani, per la prima volta insieme dal primo minuto in nazionale, realizzano una rete a testa. L'altro gol dell'Italia porta invece la firma di Giancarlo Antognoni. L'amichevole con il Portogallo sarà inoltre ricordata per il debutto di Marco Tardelli, promettente terzino di fascia dalla Juventus, che in seguito si trasformerà in un centrocampista completo. Già, pensate, è vero, Tardelli debuttò nel 76, debuttò in nazionale da terzino, come d'altra parte da terzino destro giocava nel Como, e da terzino destro arrivò alla Juventus. Poi non fu difficile intuire che, nonostante la magrezza, quel ragazzo in realtà era fatto di fil di ferro, e quindi aveva le capacità fisiche anche, e non soltanto quelle tecniche e temperamentali, per occupare un ruolo più importante. Certo, immagino che per gli ascoltatori da cuore granata in ascolto, sentir nominare la coppia Pulici Graziani di questi tempi sia sale, vero e proprio sale su una ferita. Luca dalla provincia di Siena, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Il mio intervento era soltanto per dire che non è un discorso di 16 anni o 18 anni per i ragazzi che devono diventare professionisti, ma è un discorso, e mi allaccio un po' anche al messaggio che è arrivato prima, alla disponibilità di far giocare questi ragazzi nelle squadre, visto che non ci sono limiti nel comprare stranieri, dovrebbero in qualche modo riuscire a far limitare il numero di stranieri per squadra, altrimenti i giovani non riescono assolutamente a trovare spazio, perché tutte le squadre a Milan, per cominciare, io tanto sono milanista, hanno paura ad investire sui giovani, appunto cercando di andare a trovare stranieri magari con certi nomi, non dando appunto spazio ai giovani. Tutto qui. Non è proprio tutto qui, ma certo questa è una... questa è una componente. Fioccano le segnalazioni sui tornei giovanili, dicevo, di questo periodo. Per esempio Sandro da Gorizia segnala il torneo Nereo Rocco, quindi intitolato di Gradisca, che è un Gradisca Risonzo. Questo è un torneo storico, addirittura, che esisteva prima della morte del Paronga e poi è stato intitolato a Rocco, e che si svolgerà dal 24 aprile al 3 maggio. Chissà che davvero questo il gol di questo ragazzino e qualche fermento giovanile che in giro si coglie, forse anche qualche delusione, no, da parte di squadre troppo vecchie e che troppo su gente a fine carriera ha puntato, chissà che tutto questo non ridia linfa a questi tornei giovanili e non gli ridia un po' di pubblico, se non altro, perché Insomma, è inutile negarci che negli ultimi tempi tornei giovanili che una volta venivano seguiti da, non da folle oceaniche, ma da fiordi di spettatori, ultimamente andassero in scena senza grande partecipazione corale. Sentiamo Virginio, ha chiamato da Milano, buongiorno. Ah, buongiorno signor Garanzini, che piacere parlare con lei. Sì, grazie. Io l'assisto sempre a mio figlio di 15 anni come giornalista sportivo competente, perché lui andando a scuola a quest'ora non può sentirla e ahimè sente solo le trasmissioni televisive di sé. Ed è un grande appassionato di calcio. E non fanno benissimo, dica. Ecco, infatti. Comunque sono andato a vedere Milan-Lecce domenica, sì, dalla tribuna rossa, quindi ero molto vicino al campo, ho avuto un invito, quindi ho avuto la fortuna di vedere la partita da vicino. E io che sono uno sportivo attento, ho seguito molto il guardalinea che avevo davanti a me. Il mio intervento era su questo, perché considero gli assistenti di linea come gli arbitri, delle persone comunque in buona fede e che cercano di fare il loro lavoro al meglio. E in effetti il lavoro del guardalinea penso che sia uno dei più difficili del mondo. Perché, non so se perché in campo c'era Inzaghi o per quale altro motivo, io ho osservato che il guardalinea puntava fisso il giocatore che era più avanti di tutti quelli del Milan, certo, e quindi non guardava l'azione, guardava sempre il giocatore. Penso che ascoltasse con l'orecchio il colpo del pallone quando partiva per capire se era in fuorigioco o no l'ultimo giocatore del Milan. E quindi ritengo che il lavoro sia molto molto difficile e che la buona fede, diciamo, dei direttori di gara sia comunque non messa in discussione, ma a volte, diciamo, è consentito sbagliare proprio per la difficoltà del lavoro. Ma è per questo che è ingiusto gettare la croce sui guardaline oggi in linea di massima. Primo, perché sono diventati bravissimi, nel senso che a un errore che possono commettere o a due errori che possono commettere una partita fanno riscontro 10, 12, 15 decisioni azzeccate altrettanto difficili. E poi lei faceva notare, certo, la difficoltà tecnica di quello che fanno, perché c'è questa assoluta coincidenza di tempi che li rende in realtà strabici, perché il guardalinea è perfetto, sarebbe uno strabico, perché deve avere un occhio che guarda da una parte e un altro dall'altra, ma molto distanziati tra loro. Aggiunga, rispetto a quello che ha detto lei, aggiunga la mancanza assoluta di gratificazioni, perché il guardalinea che parte da casa, che guadagna molto meno di un arbitro, e molto meno di un arbitro ha notorietà e, se vogliamo, anche responsabilità, perché c'è la marginale non complessiva. Il guardalinea, se a sera ha fatto la partita perfetta, cade immediatamente se al 90esimo più recupero ha diretto perfettamente, è nel dimenticatoio immediatamente. Se ha sbagliato una sola decisione, ripeto, magari su 10 o su 20, è immediatamente sottoposto a linciaggio dalla nota cultura sportiva che noi abbiamo. Due ascoltatori ancora per chiudere l'appuntamento di oggi. Simone ha chiamato da Verona, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli teleascoltatori. Uh-huh. Io volevo parlare un po' del Genova e un po' della moviola in campo, visto l'ultima telefonata che c'è stata del teleascoltatore. Sì. Beh, del Genova, io spero di cuore che vada in Champions League, naturalmente. Mi auguro anche che il Genova continui a giocare così e che qualcuno metta mano al portafoglio per sperare che il Genova continui ad avere le prestazioni che ha, insomma. Perché devo essere onesto, non me ne abbia male nessuno. Se dovessi scegliere tra Genova e Roma, sceglierei Roma. Io telefono da Verona, ho tifato per il Chievo, tipo per il Chievo, quindi so cosa vuol dire riuscire ad andare in Champions League. Deve essere una cosa magnifica per tutte le persone che tifano Genova. E speriamo che il Genova continui così, perché già in Europa non siamo messi molto bene, quindi insomma, speriamo che fin qua siamo arrivati. Poi, e riguardo alla moviola in campo, cosa di cui non parla assolutamente nessuno, e io non credo che sarebbe così grave. Voglio dire, gli eventi in campo durante la partita ce ne saranno importanti, ce ne saranno uno o due, e possono travolgere completamente gli eventi e il risultato di una partita, insomma, come andrà a finire una partita. Io non credo che si perdano 10 minuti, un quarto d'ora a partita, come si dice. Secondo me si potrebbe fermare il gioco, riguardare un attimino, vedere cosa succede e poi decidere di conseguenza. Si potrebbe imparare da altri sport come il rugby, e non è che il calcio diventerebbe come il rugby, perché la mia sensazione è quella che la gente abbia paura che il calcio, che lo sport diventa un altro. Guardi che nel rugby come nel tennis, come nel basket, non c'è la moviola in campo, eh? C'è un instant replay che si fissa su un solo tipo di valutazione, cioè se una palla è dentro o fuori, se una palla è in meta o meno, se un passante è andato di qua o di là dalla linea. Questa è una grande mistificazione da parte di chi vuole la moviola in campo, che nel caso del calcio sarebbe 100 volte più invasiva, ad arretta appunto ai cultori della moviola in campo. Domenico, provincia della Spezia, un intervento breve, la prego. Sì, buondì, salve. Dica. Ascolti, l'altro giorno il signor Galliani ha detto che l'Italia è indietro rispetto al resto d'Europa perché ci mancano le infrastrutture, ci mancano le strutture, ci mancano gli stadi, ci manca qui, ci manca... Probabilmente manca un'altra cosa, forse la più importante. L'occhio per andare a trovare i ragazzi che sanno giocare a pallone nei vivai e il coraggio assieme a tutto il resto. Beh, insomma, manca questo, manca altro. Il guardalinea è come l'anestesista in un intervento chirurgico. Se va bene, il medico è comunque il chirurgo, scrive Diego. È una buona osservazione. Grazie a Filippo Greggi in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento regolarmente a domani e adesso le notizie del giornale radio.